Questa mattina è stata sgomberata un'occupazione di Action in via Vercelli che era stata occupata il 6 aprile di quest'anno, dove vivevano 20 famiglie. Alle 6 di questa mattina, in maniera assolutamente cruenta, sono entrati in un'occupazione dove ci sono bambini, donne anziane ed è stata sgomberata. Questa è l'unica risposta che sono in grado di dare la polizia, appunto, contro la richiesta di diritti, così come è accaduto anche sabato con le apparizioni di San Fregato, e la loro risposta è la polizia. Così come adesso è stato fatto un corteo che è arrivato praticamente dall'occupazione di via Vercelli fino a San Lorenzo, e adesso alle porte proprio di San Lorenzo l'unica risposta che sono riusciti a dare sono 6 blindati della polizia e 6 dei carabinieri, nonché addirittura un elicottero, tanto perché il primo problema all'ordine pubblico non sono loro che uccidono le persone e che lasciano le persone senza case, ma sono appunto chi reclama un diritto. La mobilitazione adesso proseguirà con una assemblea all'interno di San Lorenzo, appunto, e questo pomeriggio c'è una mobilitazione sotto la prefettura alle ore 17.